ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Quanto può raccontare una semplice fotografia? Beh, in questo caso sarebbe più esatto parlare di due fotografie. Perché sono due le foto che mi mostra con orgoglio e con un certo desiderio di spiegarmi cosa si nasconde dietro queste foto, il mio compagno di viaggio. Un uomo simpatico, ben vestito, dai modi civili, che però muore dalla voglia di farmi capire cosa ci sia dietro quelle due foto, perché pare che un momento epico della sua vita sia legato proprio a quelle due antiche immagini, ancora scattate con una macchina fotografica tradizionale, non con uno smartphone, che rappresentano quello che adesso vi racconterò. Tutto parte da una foto che sto vedendo adesso io. Quello in piedi è lei, immagino? No, ci si vede un uomo in piedi e un altro su un carrozzino, una specie di triciclo a motore. Immagino che sia un carrozzino per persone non perfettamente abili a camminare. Quello nel carrozzino, un signore vestito di nero, tutto di nero, con un cappello nero, davanti a una sorta di insegna, e l'altro è un signore con dei pantaloni. Penso una foto di qualche anno fa, immagino, non è di adesso. Sì, è dell'estate del 2003. Del 2003, infatti. Chi rappresenta questa foto? Questa foto rappresenta un incubo che abbiamo vissuto quell'estate, iniziato subito, immediatamente dopo aver fatto quella fotografia. Allora, dove eravate andati? Chi eravate? Dove eravate andati quell'estate? Allora, era agosto 2003 e eravamo io e un mio amico e si partiva con l'Interrail, si faceva all'epoca, con tappe quasi scontate che erano Amsterdam e Copenaghen. E noi eravamo andati a Copenaghen, a Christiania, perché volevamo visitare Christiania. Che è una città particolare, una situazione particolare, diciamo, riferita a un certo mondo, o sbaglio? Sì, esatto, perché Christiania era veramente è una sorta di utopia, diciamo, è un quartiere di Copenaghen che si autoconsidera uno stato indipendente, cioè praticamente hanno un loro parlamento, una loro costituzione, delle loro leggi, hanno un loro bilancio, delle assegnazioni delle case, dei territori. È una comunità che fu fondata da fricchettoni e anarchici negli anni 70, che occuparono delle basi abbandonate lì all'inizio e poi iniziarono a costituire questa comunità, e in parte alcune leggi sono anche riconosciute dal governo danese, però che valgono solo all'interno di quel posto. Quindi noi volevamo andare lì, e poi all'epoca, diciamo, si andava a fare all'estero quello che in Italia non era legale, quindi si andava ad Amsterdam, si andava a Christiania, perché lì per esempio c'era questa strada centrale che si chiamava Pusher Street, denominata Pusher Street, che era praticamente un mercatino che noi le chiamavamo le bancarelle del torrone. Solo che al posto del torrone praticamente c'erano dei panette di fumo lì esposte al mercatino. Diciamo che era un luogo simbolico del fricchettonismo mondiale, in cui andavano ragazzi da tutto il mondo, anche voi siete andati a fare questa avventura di andare in un posto dove c'era diciamo libertà di fumo, di farsi tranquillamente e provare questa esperienza non attuabile ad altre latitudini. Lì c'è una sorta di zona franca in cui si faceva questa esperienza. Andate a fare quello, sono andati migliaia di altri ragazzi, no? A fare un po' di qualche fumata in libertà, in allegria, e respirare quest'aria di luogo utopico dove ognuno fa quel che vuole, qualcosa del genere, mi sembra. Esatto, perfettamente. Ma voi eravate ragazzi che normalmente facciate una vita, avevate delle famiglie, facciate una vita normale, o già eravate fricchettoni anche in partenza? No, eravamo ragazzi, io stavo all'università, vivevo a Napoli. Di bravi ragazzi, cioè, che hanno voluto fare un tuffo. Non eravamo dei punk oppure dei freak che correvamo. Una cultura che vi interessava probabilmente a vedere, anche diciamo che era un po' gli sgoccioli, lì si rappresentava un mondo che non faceva più parte diciamo della contemporaneità, anche nel 2003, o sbaglio? Sì, infatti è stato molto poi ridimensionato negli anni. Prima c'era questa strada con queste, vendevano di tutto, poi ci fu anche un governo di estrema destra in Danimarca, e un periodo la volevano anche togliere da mezzo, c'erano queste magliette con la bandiera di Cristiania, con la ruspa praticamente, perché la volevano smantellare, poi quindi adesso l'hanno ridimensionata, però comunque esiste ancora. E ci sono ancora appunto questi pionieri. Ma sono un po' attempati, ormai la gente mediamente avrà 70 anni, diciamo, tra i fondatori, come minimo. Sì, infatti lì c'era un baretto dove c'erano appunto tutti questi personaggi che erano un po' i pionieri dell'epoca, che però parecchi ormai avevano dei problemini. Il problema di prostata soprattutto, perché ormai cioè, erano diciamo degli ex guerrieri della libera droga, che adesso stanno lì facendo le icone di un mondo passato, come che ne so, una riserva pelle rossa, mi fa venire in mente, si travestivano da fricchettoni anni 70, anni 60, qualcosa del genere. Sì, e niente, poi quell'estate praticamente successe un fatto insolito che gettò un'ombra di inquietudine su tutta la vacanza, perché una bella mattina arrivò questa notizia in campeggio, ma che fu pubblicata anche sul quotidiano principale danese, che praticamente era stato assassinato, c'era stato un omicidio, era stato ammazzato un italiano alla stazione di Copenaghen. E questa cosa suscitò molta inquietudine anche nella comunità, anche tra i danesi, perché innanzitutto era un fatto rarissimo, perché la Danimarca io credo che sia uno dei paesi col tasso di omicidi minore d'Europa, se non addirittura del mondo, cioè non succede mai nulla lì, il giornale di cronaca è noiosissimo, sono tutte belle notizie. E invece quello sto pensando proprio, quando anche dalle nostre parti, quando sarebbe bello il giornale delle belle notizie, beh, una noia terribile. Invece guardi, io sono di Caserta, se lei vede, cioè, il giornale di cronaca qua non si annoia, diciamo che noi le chiamiamo le squadre di pallone, ci sono tutte le fotografie ogni giorno delle persone che vengono arrestate. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. È significativo che da una situazione come quella, diciamo, di una città in cui ci sono tensioni per tutti i tipi, tensioni sociali, tensioni di malavita organizzata, tensioni di flussi di stranieri. Caserta, il problema che oggi sta lamentando l'Italia lo conosce almeno 20 anni, ma se non più. Io mi ricordo i primi servizi che facevano i mazzoni 25 anni fa saranno, quando diciamo, problemi con gli africani che raccoglievano i pomodori, quindi sono cose un po' conosciute. Mi fa pensare che nel 2003 un gruppo di studenti, immagino di buone famiglie, bravi ragazzi nell'accezione comune, gli è venuto voglia di fare questo salto nel passato. Cos'è che, quanti eravate innanzitutto a partire? No, eravamo io e questo mio amico Paolo. Due amici, sì. E lì avete altri amici italiani, avete conosciuto altre persone? Sì. Sì, poi c'erano molti italiani che in quegli anni viaggiavano in Interrail, e poi in quella, proprio a Cristiana avevamo conosciuto tre ragazze simpaticissime di Tivoli con le quali avevamo fatto amicizia. Mosse dalla stessa curiosità di andare a Cristiana. Sì. Tra l'altro loro erano molto più organizzate di noi, perché mentre noi stavamo con la tenda e il sacco a pelo, loro invece avevano fittato, avevano proprio una casa, un appoggio lì al centro di Copenaghen. Tant'è vero che l'ultimo giorno di vacanza che ci invitarono a casa loro, dissero: vabbè, visto che domani dovete partire, venite a casa, venite via da qui, venite a casa, vi fate una doccia, stiamo insieme. Era la tipica vacanza massacro la vostra, in terrelle, tenda, proprio, con soldi contati, ma giustamente. Esatto. E uno si forgia, l'ho fatta anch'io, ho fatte con l'autostop, ancora più povere le mie, erano con l'autostop, figuriamoci, quindi avevo ancora meno soldi. Poi all'epoca non c'erano gli smartphone, quindi andavano in giro con la Nokia 3310 e praticamente non c'era Google Maps, YouTube. Sì, poi Facebook, costavano tantissimo, diciamo, telefonare dall'estero, quindi si pensa sarà centellinato. E quindi arrivavano, le dicevo, a causa di questo omicidio, arrivavano queste telefonate in campeggio di tutte le mamme italiane preoccupate. Dicevo, ah, ma voi state lì, ma come state? Ma non eravate bambini comunque, eravate già studenti universitari. Eravate no, 23 anni. Dico, 23. Però le mamme si preoccupano, è chiaro. Sì, lo stesso, perché c'era stato questo omicidio, e allora dice, ma che sta succedendo proprio lì a Copenaghen dove state? E le femmine di Tivoli erano preoccupate per l'omicidio? Come vi siete relazionati con le ragazze? No, arrivavano queste telefonate delle mamme in campeggio e tutti qua dicevano: no, tranquillo, noi stiamo bene, qua si sta bene, non c'è problema. Sì, perché ammazzato un italiano subito pensano che ci sia un serial killer che esatto. Non è un paese per italiani, capito? E questo diventa... Ok, quindi, allora vengo al dunque. Allora voi già... I protagonisti sono sempre lei e il suo amico, le ragazze in questo momento sono fuori. E queste tre. No, sono anche noi cinque siamo. Quindi eravate anche sparigliati per eventuali pretese o illusioni di accoppiamenti. C'era una ragazza in più. E come eravate sistemati da questo punto di vista? Cioè, quali erano le ambizioni? Non mi dire che andavate soltanto per farvi. Tre ragazze trovate. No, c'erano... La speranza c'era. E sai, appunto, a me piaceva una ragazza. Giustamente, è il tuo amico con l'altro. Con l'altro c'era un altro flat, e l'altra era la sorella di una delle due, stava lì così. A rompere le palle, chiaramente, era un di troppo. Stava lì con loro. Vabbè, le mamme previdenti di Latina hanno mandato la sorellina a sorvegliare la sorella. Quindi al momento c'era in corso un possibile flirt, c'era qualche bella spippettata nel quartiere adatto, e questa situazione di allarme che avevano ammazzato un italiano alla stazione con le mamme preoccupate. Ecco, quindi una mattina vi svegliate con tutte queste componenti: il fumo, l'illusione che poi mi dirai se vuoi come è andata a finire, di amori di vacanza, e la preoccupazione e il brivido dell'omicidio. Cosa avete fatto quella mattina? Allora cosa succede? Era un sabato. Praticamente avevamo fatto, erano le 6-7 di mattina, avevamo fatto tutta la notte insieme a divertirci, perché poi c'era un festival lì bellissimo, si chiamava Alpha Machine, sul rapporto uomo-macchina, dove c'erano tutte installazioni biomeccaniche. Anche cyberpunk totale, estremo, c'era di sì, tutto. Sì, per essere 20 anni fa era proprio all'avanguardia, era molto bello, quindi facemmo tutta la notte, c'era musica, eccetera, e alle 6-7 di mattina loro ci dissero: vabbè, venite a casa nostra. Ma l'avete preso come un invito? Certo, invito a notte. La mattina ti viene a casa mia, ne che viene a fare la doccia, su, non ci prendiamo in giro. Infatti. Allora, però ormai era giorno, eravamo un po' stanchini, allora appunto le dicevo, non c'erano smartphone, quindi io c'avevo la mia bella reflex con il famoso rullino fotografico, certo, dove c'era anche il numeretto sopra di quante fotografie mancavano. E mancavano queste due fotografie alla fine di questo rullino. Allora io praticamente una ci facemmo scattare una foto, un po' di amici lì che c'eravamo conosciuti. È questa che mi stai facendo vedere, questa qua? Sì. La prima. Allora, quale sei te di questa foto? Perché siete quello molto... centrale. Ah, quello abbracciato con un... La ragazza ti piaceva, quella bionda che sta alla tua sinistra? Sì, sì. È carina, più carina in effetti. Grazie. Poi l'altra è l'ambizione del tuo amico, che è quello che sta vicino. E poi c'era la sorella. La sorella, quella rompipalle dietro seduta, che la tenete in secondo piano. E poi ci sono altre due persone, chi sono? Eh no, erano amici nostri che avevamo, altri italiani. La location cos'è? Il campeggio? Vedo degli alberi dietro. Sì, no, è Cristiania proprio, però in mezzo, diciamo, dove potevamo piantare le tende. E la macchina di chi è? Non mi ricordo, però era là all'epoca chi viaggiava col treno, chi arrivava con tu eri un ragazzino, avevi 22 anni, ma con una faccia da ragazzino. Sì, anche adesso ne ho 40, mi dicono che ce ne ho 30. Vabbè, comunque tutto vabbè, bene. Vabbè, buono. La ragazza allora, super fricchettona comunque, pantaloni arrotolati al ginocchio, calzini maschili, capelli fricchettonissimi. Loro erano andate, diciamo, erano in tenuta da battaglia più o meno, si capiva. Sì. Quando fa proprio il salto nella trasgressione. Voi verrate vestiti un po' da spiritosi, cercando di camuffarvi nei vecchi fricchettoni, però vanno sgamato subito come bravi ragazzi, perché la faccia pulita da bravo ragazzo, c'ha anche il golfino sulle spalle come nei film di Boldi De Sica, dai, eri un bravo ragazzo. E quindi andiamo, quella mattina cosa succede? Andiamo avanti. Cosa succede? Con la suspense. Arriviamo quest'ultima foto nel rullino. Io praticamente vedo questo personaggio. Questa è la penultima, questa che mi fa vedere col gruppo dei ragazzi è la penultima. Sì, poi ragazzi, c'era l'ultima. L'ultima è quella inquietante, con questo signore in piedi, con i capelli rasati a zero, pantaloni. No, quel signore, quello era un tossico, era un alcolizzato, sì, che stava lì. Ma sì, una persona molto strana, cioè non si vede, sì. La descrivo per chi ci ascolta. Lo sfondo è un cassonetto, mi sembra che dà l'idea comunque. C'è una siepe, un signore in piedi con dei pantaloni antichi, sembra dei pantaloni anni 40, una camicia molto larga, capelli rasati a zero, sguardo perduto nel nulla, con una strana inclinazione a 30 gradi, sembra quasi Michael Jackson quando faceva quell'operazione che rimaneva sospeso, che sembrava, diciamo, non si capiva come facesse a stare a 30 gradi rispetto al pavimento. Ecco, quello era un tossico, dovuto alle birre. Quello era un tossico così, abbandonato a fare da segnapalo, segnaposto. E il signore su quel carrozzino chi è? Su quel triciclo? Vestito come Freddy Krueger, tutto di nero, il cappello. Esatto, glielo stavo per dire io. Praticamente questo signore era un personaggio che noi avevamo visto spesso lì, perché era un autoctono, uno che stava da tempo, che era un personaggio folcloristico, perché era tutto vestito di nero, con la giacca di pelle nera, il cappello nero, la bandana, poi si vedeva che aveva problemi di deambulazione, perché aveva delle stampelle appresso, poi aveva un catetere attaccato. Sì, poverino, aveva dei problemi fisici e girava su un triciclo, una specie di carrozzino a tre ruote, che era il suo mezzo di trasporto. Sì, però non era quelle elettriche che fanno adesso. No, motore, lo vedo. Era una motoretta a benzina. È un ciclomotore a tre ruote con una cappottina, che dietro c'era una cassetta dove portava le sue cose, davanti un'altra. Quindi era il suo mezzo, oltre che di trasporto, anche in parte forse di abitazione, o di passava la giornata qui sopra. Ecco, giusto. C'era una poltrona, seduto su una bella poltroncina, passava la giornata qui. E noi l'avevamo visto sempre, perché stava sempre lì. Quindi per me era un ricordo, ho detto, ah vabbè. Allora, ma lui cosa faceva? Vendeva, spacciava? Perché sulla cassetta davanti vedo tutte foto attaccate, decalcomanie, non capisco cosa sono. Ah sì, comunque forse vendeva riviste, quelle lì, insomma, che fanno vendere alle persone che hanno dei problemi economici. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. E allora io ebbi questa malaugurata idea, di dire, per l'ultima foto facciamo una foto sto personaggio, così per ricordo, perché anche se era un po' inquietante, infatti sembrava un po' Freddy Krueger. Sì, c'ha un cappello larghe tese, nero. La faccia molto allucinato, e poi ti guarda nell'obiettivo in questa foto, quindi lui sta vedendo, tu lo stai fotografando. Sì, io glielo chiesi, sì. Lui ti guarda allora quello lì, l'uomo palo, rimane immobile di profilo e non si vede. Lui ti guarda nell'obiettivo, ti vede seduto nel suo carrozzino, ti guarda, e il cassonetto sempre sullo sfondo. Ah, bella foto. Facciamo la foto a questo signore. Allora immediatamente lui inizia a dire now give me money, give me money. Voleva essere pagato, è come centurioni davanti al Colosseo, voleva i soldi. E in quel momento, ma non perché non volevamo, ma veramente non ci avevamo proprio spicci in tasca, cioè stavamo senza soldi, erano gli ultimi giorni di vacanza, noi glieli volevamo pure dare, ma nessuno ci aveva spicci. Ma tu tieni conto, lui era travestito da fricchettone, in una zona dove tutti andavano a visitarla come se fosse una sorta di parco a tema, viveva anche delle foto che gli facevano. Come, tu prova a non pagare un centurione davanti al Colosseo, poi vedi che gli succede. Infatti. È la stessa cosa. Succede? Poi le banconote, cioè voglio dire, 100 corone erano tipo 15 euro, cioè non è erano che tanti. Gli potevamo, non è che gli potevamo dare 100 corone, cioè non era una cosa. Quindi, ti ho detto non ho soldi. Quindi no, non abbiamo niente. Allora questo a un certo punto, come si dice a Roma, gli parte la brocca, oppure come si dice a Napoli, gli sento stata nervatura, si è arraggiato, cioè a un certo punto impazzisce e comincia a dire no, you fucking Italian bastard, comincia a sbraitare sarà un po' incazzato, e in danese. Dice, questo sì. Va visto però, in 5 o 6, ben vestiti, carini, di buona famiglia, ci possibile che non ci hanno da darmi manco uno spicciolo a me? Un po' si arrabbia, giustamente. Si arrabbia, però un pochino va bene, però a un certo punto dice questa frase che si in inglese, sbraita in danese, poi dice in inglese, forte e chiaro, dice now I kill you, e caccia fuori un coltello a serramanico, che però, cioè, un coltello di una certa importanza e faceva abbastanza paura, cioè non è il taglierino, il coltellino. Cioè un coltello di due palmi di lama, quelli che scattano. Un po' di meno, però comunque un coltellaccio. Il coltello d'assassino, diciamo la verità. Prende, accelera sta motoretta, ci comincia a inseguire col coltello in mano. Ad attaccare, sì. Ci voleva proprio infilzare. E il problema è che noi stavamo a piedi con gli zainetti sulle spalle. Vabbè, scusa, questo usava la motoretta come se fosse, che ne so, un mezzo spaziale. Non potete mettervi dietro al cassonetto. Cioè, a un certo punto con la motoretta non può andare ovunque. Sarà anche problemi. No, invece, ecco qua sta il grande paradosso. A un certo punto noi cominciamo a correre, usciamo da Cristiano, cominciamo a correre per Copenaghen, però era domenica mattina. Ma non vi siete sparpagliati in modo che almeno aveva più bersagli? No, siete rimasti tutti in gruppo? Stavamo correndo per le strade principali. Il paradosso è questo, che essendo Copenaghen una città ultramoderna, praticamente non ci sono barriere architettoniche. E quindi lui poteva andare ovunque col carrozzino. Noi cercavamo un posto dove ripararci, invece questo saliva ovunque, cioè marciapiedi, rampe. È un incubo, sembra un film di supereroi, capito? Quasi. Poi lui correva con sta moto, noi a piedi, col fiatone, a un certo punto per esempio giriamo, convinti di averlo seminato, ci troviamo pure in un vicolo mezzo cieco, questo a un certo punto spunta dalla strada e ci punta dritto. È un film dell'orrore, cioè se aveva la motosega era un perfetto film dell'orrore. Allora poi a un certo punto ci spostiamo, questo tira dritto, si schianta contro la sala cinesca di un supermercato procurando dei danni incredibili. Ma non c'era un vigile, un poliziotto? Nessuno in giro non c'era nessuno, era Ferragosto di domenica alle 6 di mattina a Copenaghen. Ah, quindi il deserto totale era? E tra l'altro non è come i telefonini, chiami la polizia, dovevamo fare il prefisso da lì. Erano tutti ubriachi dal sabato sera, dormivano. Certo. Comunque a un certo punto, ecco, questa la voglio raccontare perché fa ridere, ma è anche un po' trash. Continua questo inseguimento che è durato un bel po', tipo un'ora, poi cioè un sacco di tempo e non riuscivamo a togliercelo davanti. A un certo punto questo, Nicoletti, si stacca il sacchetto del catetere, sì. E mentre correva ce lo inizia a spruzzare addosso. C'ho anche le armi chimiche, quindi. Però era un uomo dalle infinite risorse, cioè non è che era proprio. Si mette a tirare il contenuto del suo catetere. Ci spruzza questo urine con le ragazze, poi super impaurite, tutte schifate, oddio, che venivano bagnate da questo liquido terribile. La pioggia dorata forzata, diciamo. E la sua punizione che ci doveva dare. A un certo punto troviamo una siepe, una aiuola. È andata anche bene che non c'aveva anche un altro sacchetto, perché sarebbe stato bello. Saliamo su questa aiuola e questo vede ci comincia a girare intorno, tipo squalo, no? E con sta motoretta noi non riuscivamo, non sapevamo che cavolo fare. Continuava a tirarvi, diciamo, le secchiate di pipì. No, continuava a sbraitare in danese, diceva sempre fucking in Italian. Ma a quel punto non potete tirare fuori 15 ma... euro e glieli davi, non se ne parlava più, cioè di fronte a essere infilzato da una coltellata, spisciolato addosso, io l'avrei fatto, scusa. In quel momento secondo me non sarebbe manco servito, perché lo vedevamo proprio fuori di sé, era fuori, cioè, di brocca completo. Era molto violento, sì, era aggressivo, avevo paura. E comunque vado verso il finale. Proseguo? Sì, sì, sì, no, sono interessatissimo, ecco. Al punto siete assediati al centro di un'aiola, colui che vi gira attorno e col coltello minacciandovi dopo avervi fatto le peggiori nefandezze. A quel punto io dico, raga, noi vediamo un pullman in lontananza fermo su una strada, ho detto, raga, noi ci dobbiamo smarcare da questa situazione, da questo tipo, perché non gliela facciamo più, stiamo a correre da un'ora, insomma facciamo qualcosa. Ma una difesa non l'avevate pensata, cioè, saltiamo tutti addosso, alla fine siamo in cinque, gli rovesciamo la carta, il motorino e via. No, le ragazze stavano super impaurite, no? Ma guarda, un coltello fa paura, onestamente, immagino vedere un coltello, chi si avvicina a un coltello, ma manco infatti è quello, perché io e Paolo poi non è che siamo due, sì, ma due ragazzini li vedo, uno col coltello fa paura, poi uno fuori di testa tanto ti dà una coltellata, poi si vede, capito? Comunque, nonostante tutto, elaboriamo questo piano, diciamo ragazzi, facciamo così, io gli vado incontro, vedo di parlargli dietro un cazzotto, voi appena vado, voi correte, andate al pullman e chiamate la polizia. Ah, hai avuto un coraggio, tu avresti, saresti immolato ad affrontarlo. È perché io avevo creato un cazzotto a uno col coltello, però sai, c'è il tuo rischio. Io avevo creato il problema, comunque dovevamo, poi eravamo stanchi, non ce la facciamo più a correre, basta. Insomma, facciamo questa azione. Ti avvicini te? Io mi avvicino e gli provo a tirare un cazzotto in faccia. Ma sai cosa gli avevi detto? Te cosa gli avevi detto? Niente, così. E io volevo parlare, ho detto no, excuse me, no, I want to talk, così, cioè, cercavo di calmarlo. E hai provato a colpirlo? L'ho colpito, ma lui tipo Terminator, cioè nel senso... Gli hai fatto un baffo? Cioè non gli ho fatto niente, anzi si è arrabbiato ancora di più. Insomma, cioè gli hai dato una carezza e l'ha fatto arrabbiare ancora. Esatto. L'ho distratto. Ma ti è andata bene che non ti ha dato una coltellata mentre gli davi quel pugnettino in faccia? L'ultima corsa, vediamo questo autobus, la nostra grande salvezza. Saliamo sull'autobus, facciamo vicino all'autista, please go, go, go, go, vai, parti, parti, parti. Questo fa, no, no, this is broken. L'autobus è rotto. Detto, ah, che sfortuna. Ecco, a un certo punto, ecco lì, si ma non auto. Può nemmeno chiudere le portiere, niente. Esatto, l'ultima scena horror, questo qui, noi dentro facciamo please call the police, chiamiamo le persone, diciamo chiamate la polizia, c'è uno che ci sta inseguendo, insomma cerchiamo. Beh, allora, l'impassibilità, questo arriva dei nordici, arriva, sparcheggia davanti all'ingresso della portiera dell'autobus e a un certo punto, come nei migliori film horror, scende. A un certo punto spegne la motoretta, prende la stampella e mette un piede a terra, perché comincia a salire lentamente, perché un po' se la faceva a camminare. C'era proprio determinato a sgozzarvi. Comincia a salire sull'autobus, piano piano, noi tutti impauriti, oddio, oddio. Comincia a salire e si avvicina. Per fortuna, praticamente, tempo 2 minuti, arrivano, faccio questo suono. E chi l'aveva chiamata? L'aveva chiamata l'autista? Sì, qualcuno nell'autobus l'aveva chiamata. E nel frattempo, scusa, voi come eravate? Tutti dentro l'autobus e lui che è entrato con la stampella e col coltello sempre? Noi in fondo all'autobus, che comunque tremavamo ormai di paura perché eravamo... Eravate in un cul-de-sac, non ne uscivate più ormai a quel punto. Spalle al muro, siamo, questo cammina pure, adesso, cioè, noi pensavamo che la motoretta, invece questo a piedi, capito? Cioè, comunque insisteva fin quando non avrebbe realizzato questa cosa, che diceva, che continuava a dire now I kill you. Il treno va. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. tutti vi avrebbe ammazzato, solo te avrebbe ucciso, non lo sai. Non lo sappiamo, meno male che non lo... Per fortuna ridi, vuol dire che è finita bene. Dai, sì, allora, sì. A quanto si è avvicinato a voi? Quanto si è avvicinato a voi? No, no, all'ingresso, giusto all'ingresso dell'autobus. È arrivata la polizia? Arrivano questa macchina e questa motocicletta. Entrano questi due poliziotti, questi due agenti bellissimi che sembravano Barbie e Ken, cioè praticamente due stangoni di 1,97 m, lui e lei bionda con gli occhi azzurri, tutti agenti svedesi, tutti super accessoriati. Vabbè, erano supereroi per voi in quel momento, erano sì, in quel momento, poi però di loro già erano fighi comunque, sembrava veramente Barbie e Ken, e questo fa: "Don't be afraid, now the police is here." Noi a questa voce così, proprio veramente per noi era la salvezza. E lui come ha reagito, il personaggio? No, il personaggio era... Si era calmato? Sì, l'hanno preso. No, poi dopo il problema è stato pure che... Sì, ma lui di fronte ai poliziotti si è calmato? Razionalmente. Si è arreso. Sì, sì. Gli ha dato il coltello, gli ha consegnato l'arma? Sì. L'hanno manettato, avete visto proprio l'arresto? No, no, praticamente all'inizio c'era anche un po' di diffidenza, perché ci hanno preso e ci hanno separato da una parte a lui e da una parte a noi, e praticamente questo, per difendersi, aveva raccontato che noi lo volevamo rapinare. Ci poteva anche stare un povero signore disabile con la carrozzina, voi cinque ragazzacce che vengono in cerca di droghe e di piaceri, dice, questi gli hanno provato a portare via i soldi. E infatti lui aveva, però questa era una versione per difendersi. Ma che doveva fare, certo. E noi invece gli avevamo spiegato in inglese, detto, guardi, noi abbiamo solo scattato sta foto, poi dopo questo qui voleva i soldi, ma noi non ce l'avevamo, insomma ha cacciato sto coltello, ci ha iniziato a inseguire, insomma ognuno, all'inizio erano pure diffidenti verso di noi, più diffidenti verso di noi che verso la persona del loro paese. Eravate gli stranieri, tieni conto, esatto. Sullo straniero c'è sempre un alone di diffidenza, questo è logico, anche se è un poliziotto, dice, beh, cominciamo, difendiamo il nostro cittadino. E quindi cosa succede? Loro però poi vanno a vedere a terminale, poi vengono e ci dicono, ah no, no, senta, noi lo conosciamo. È un pregiudicato. C'ha un po' di precedenti, poi è praticamente strafatto dalla mattina. È psichiatrico, no? Certo. E lo prendiamo noi in carico perché sta già in carico presso una struttura. Poveraccio, ha avuto il cervello bruciato da 30 anni di droghe pesanti che si prendeva. No, penso. Sì, penso pure io. Quello è assurdo. Poi alla fine ci dissero, allora ragazzi, che volete fare? Volete venire in commissariato a fare la denuncia oppure no? E noi sinceramente allora non avevamo dormito, poi avevamo ancora l'adrenalina a mille, il fiatone di tutta la storia, volevamo solo andare a casa a riposare. Tanto quindi... che vi cambiava fare la denuncia, anzi. Infatti. Poi dovevate mettere comunque un avvocato, muovervi, il diritto internazionale. Ma altre tre ore lì al commissariato. Gli iter giudiziari poi sono implacabili, poi comunque se lo processavano in qualche maniera dovete essere rappresentati voi, quindi vi avrebbe creato dei problemi. Sì. Infatti la vendetta di Freddy Krueger io non l'avrei affrontata una volta uscito da galera. Infatti noi dicemmo, guarda, accompagnateci a una metro qui vicina, diciamo, che così torniamo a casa e non fa niente, lasciamo stare. E quindi poi, da che stavamo morendo di sonno, invece poi stavamo coi capelli dritti nella metropolitana che non riuscivamo a dormire perché... No, ma tu pensa il destino, le vostre mamme preoccupate la mattina che qualcuno va a coltellasse, voi avete veramente rischiato di essere accoltellati. Onestamente, a tutti gli effetti avete rischiato le coltellate. Sì. La cosa più bella, poi in chiusura, è stata quella che il premio. Poi, quando siamo tornati a casa e poi abbiamo sviluppato quel rullino, ecco che vengono fuori questa foto e tutti quanti guardandola diciamo, ma ragazzi, ma voi vi rendete conto dopo questo scatto che cosa è successo? No, ma è inquietante, il personaggio sembra un personaggio di un film dell'orrore reale, poverino, perché ha il volto scavato, lo sguardo con cui vi guarda, già è uno sguardo che in realtà lui è in posa, ma ha già capito forse qualcosa non andava, capito? E già lì sta già dallo sguardo si dice, questi evidentemente evidentemente la procedura era diversa, uno chiede, lui contatta il prezzo, gli danno i soldi e fa la foto, cioè questi mi fregano una foto, ti è incavolato come una bella. Senti, con le ragazze invece come è andata poi? Questo è stata, diciamo, avuto una funzione debilitante di ogni palpito amoroso, o c'è stato un premio per la vicenda in cui siete stati degli eroi scappando? No, invece no, c'è stato un premio. Ah, ecco, beh, quello perché... è andata bene. Beh, giustamente. Eros e Thanatos, dopo aver sfidato la morte, giusto? Il premio dell'eroe deve essere l'amore, chiaro. Sì, no, ci fu anche una cosa che mi è capitata raramente in vita mia. Sì. Cioè, praticamente io tornammo a casa, finì a letto con una di queste tre ragazze. Sì, quella con la sorella o con l'altra? No, quella senza. Quella con la sorella. Ah, con la sorella, sì. Poi praticamente questa ragazza, il pomeriggio c'aveva l'aereo, quindi io l'accompagnai all'aeroporto che doveva partire. Tornai a casa, loro, e trovai praticamente l'amica sua. Quella del tuo amico, quella del tuo amico. Quella che quella del mio amico, che però il mio amico non c'è. Andò in bianco. Non ci aveva fatto niente. Hai bissato con l'amica? No, non me lo dire. No. Sì. No, sì. Vabbè. È la giornata epica. Tu non avrai mai più nella vita una giornata così importante. Ti rendi conto? Io per questo gliela volevo raccontare, perché... Cioè, ma questo è il coronamento di una giornata di gloria, veramente. Cioè, hai rischiato la vita, hai affrontato un mostro spaziale extraumano, hai avuto la gloria dell'amore dei due amiche, contemporaneamente l'hanno data a te e non al tuo amico, ma è una cosa che nella vita penso che non succederà mai. Infatti. L'amica ti ha fatto il premio. L'amica pure, quando sono tornato a casa, stava lì, così, dormiveglia, c'era Stefano. E doveva fare uno sfregio all'amica, dice, perché l'altra chi è? Ha scelto l'altra, ci sono anch'io. Giusto? E la sorella, no, ti mancava solo la sorella alla fine. No, la sorella però non mi piaceva. Vabbè, dico, tu vorrai anche accontentare, diciamo, quel giorno di emozioni ne hai provate abbastanza. Infatti. Quindi comunque, si può dire che questa è la giornata più raccontabile della tua vita a tutti gli effetti, perché sicuramente uno dei ferragosti più belli della mia vita. È bello che in queste due foto ci ha raccontato tutto. Vedo le due ragazze ancora inconsapevoli che sarebbero stato il premio del tuo ardire, vedo il tuo amico, già c'ha la faccia un po' triste, aveva capito che per lui non era trippa per gatti, e vedo il truce assassino che vi guarda e dice che in fondo gli devi essere grato. Se non ci fosse stata questa vicenda, l'inseguimento, le coltellate, ma magari manco te l'avrebbero data. Tu, in quel tuo gesto eroico di dare il pugno all'assassino, beh, l'hai conquistato, tutto sommato. Ti ha dato una grande occasione, no? Non sei d'accordo? Sì, potrebbe essere, sì. Vabbè, mi ha fatto piacere, grazie di questo racconto. Si parte con un treno, si arriva in posto dove può accadere di tutto. È una bellissima trama, se qualcuno ci ascolta che fa lo sceneggiatore, il prossimo film dell'orrore a base di studenti, perché poi è un filone dell'orrore, che arrivano gli studenti in una casa nel bosco, vanno in vacanza e poi c'è sempre vicino il mostro con la motosega che uno per uno li squarta tutti, quindi sì, è come si dice, exploitation, sì, del genere, un po' così. esattamente che arrivano questi ragazzi in una casa affittata, pensano delle vacanze carine, vicino c'è la famiglia dei mostri che in realtà prende la gente, la appende, la dissangua e se la fa pezzi, se la mangia pure. Lentamente, uno dopo l'altro, con la motosega lo prendono, lo sgocciolano e se lo mangiano. E invece per voi è andata meglio. In bocca al lupo, buon viaggio, grazie. Hai reso felice questo tratto di ferrovia. Alla prossima, ciao. La ringrazio. Si avvisano i signori passeggeri che il treno va ripartirà sabato prossimo alle 15 dalla stazione di Radio 24. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.